Allora, il burnout è una malattia non ancora riconosciuta in Italia. Nello specifico, come effetti, come sintomi, i soggetti, ecco, colpiti, insomma, si sentono depressi, possono anche incorrere a delle malattie oncologiche, attacchi di ansia, insomma, ci sono diversi sintomi che si avvertono. Invece le cause sono tantissime e sono nel nostro settore inerenti proprio al sovraccarico di responsabilità e di burocrazia, quindi una non tutela del docente e anche una mancanza di diritti che ormai sono stati lesi da 20 anni a questa parte a causa di riforme scolastiche, insomma, che hanno messo in difficoltà il docente e rendendo anche qualitativamente la scuola di una bassa, appunto, qualità. E invece le volevo chiedere, quanti sono, secondo i vostri dati, secondo le vostre rilevazioni, i docenti interessati dal fenomeno in Italia? Il 90% dei docenti è in burnout ed è usurante prevalentemente sui docenti perché innanzitutto c'è una relazione 1 su 25 in contemporanea, che è l'unica professione al mondo che appunto si relaziona contemporaneamente con diversi soggetti. E poi anche perché un insegnante, diciamo, prende sempre classi giovani, a differenza della propria, che diciamo cozza con l'età, che va sempre più a invecchiare, quindi mancano energie, mancano pazienza, manca diciamo anche la motivazione, ecco. E le leggi, diciamo, che hanno applicato appunto da 10 anni a questa parte rendono la scuola un'azienda e i clienti sono i genitori o le famiglie e i dirigenti sono dei manager. E Certo. chi ne va a discapito è il docente. Infatti è una situazione dove, come tutti possono immaginare, ci perdono sia docenti, sia alunni, che genitori, che famiglie e ovviamente tutto quanto il sistema scolastico in generale. Mi può dire se sono più interessati i docenti magari occupati in università o superiori o anche una importante fetta delle medie oppure delle scuole dell'infanzia? No, allora il burnout tocca in modo trasversale le scuole di primo e secondo grado in particolare. Ritornando alle statistiche, appunto il 90% degli insegnanti soffrono di burnout, alcuni sono consapevoli, altri non lo sono, mentre il 35% degli insegnanti stanno valutando seriamente la possibilità di abbandonare la scuola. Un'ultima domanda, mi parli meglio delle proposte che sono incluse nel disegno di legge di cui avete discusso appunto in Parlamento. Il primo, quindi la prima istanza è proprio sulla relazione che cioè, ci dovrebbe essere quindi tra dirigente e docente. Sì. La seconda istanza è dovuta sempre alle funzioni strumentali, quindi meno burocrazia, un turnover anche da parte di queste funzioni strumentali biennale. Brevemente parliamo anche della possibilità di spostarci, cioè cambiare, spostarci da una pubblica amministrazione a un'altra, dare la possibilità di fuga per un docente, cosa che proprio per questa categoria, pur essendo impiegati statali, non riusciamo, cioè lo Stato ci vuole docenti, punto. E poi la possibilità di andare in pensione non a 67 anni, proprio perché è una professione usurante quella del docente, ma bensì a 60 anni. E Certo. poi il riscatto della laurea, dirigenti scolastici meno manager, ma più appunto inclini a promuovere il benessere all'interno della scuola, possibilità di crescere tutti.